23. Un breve respiro. Gli ultimi di gennaio mia zia era partita per Roma e io incominciai a concepire novelle speranze fin dalle sue prime lettere. Le cose andavano prendendo buona piega, ma chi non conosce i traccheggiamenti della corte romana, dove per ottenere un'udienza preliminare fa d'uopo talvolta aspettare più settimane o più mesi. Nel seguente marzo mia madre cadde gravemente malata di bronchite. Sempre peggiori mi giungevano le nuove del suo stato. Bramosa di vederla e reputandomi ormai esonerata dai rigori della clausura, sperai che almeno in quella urgente e dolorosa circostanza non mi sarebbe negato valermi dell'ottenuto permesso. Ne feci richiesta al cardinale e rispose con imperioso laconismo: no. La principessa di Ripa si recò da lui per implorare un atto di umanità che non un capo di chiesa cristiana, ma perfino il più fanatico muftì di Costantinopoli si sarebbe sollecitato ad accordare. Promise la pietosa dama che sarebbe venuta a prendermi con la sua carrozza chiusa, che ricevuta l'ultima parola della morente genitrice ella stessa e nella stessa giornata mi avrebbe ricondotta a Mondragone, pregò, insisté, supplicò, in termini che commossero tutti gli astanti, concluse dicendo che la figlia, già sofferente, sarebbe morta di cruccio ove non avesse ricevuto l'estrema benedizione della madre. Sua Eminenza rispose: muoia pure, non uscirà mai più. Alle sollecitazioni della principessa aggiungevasi il giorno dopo la mediazione del nunzio, il quale, per atto di spontanea filantropia, si costituiva garante del mio ritorno al chiostro. Sua Eminenza rispondeva di nuovo no. Alfine mia madre spirò col dolore di non aver potuto abbracciare negli ultimi momenti la più sventurata delle sue figlie. Su questo fatto io scrissi a mia zia una lettera pregna di lacrime che ella, destra e solerte, fece leggere a parecchi cardinali. Lo stile patetico del foglio scosse la sensibilità di quei dignitari, i quali vicendevolmente si dissero che le durezze di Riario non erano che l'effetto di una persecuzione personale. Poco appresso veniva rimessa da Roma all'arcivescovo la fede surriferita dei medici con la solita domanda del suo parere. La risposta fu al solito negativa. Ma come la vela della mia barchetta cominciava a pigliar vento, da persone di quella corte a me propizie gli venne ingiunto che scegliesse egli medesimo un medico di sua fiducia per fare un'altra fede. Il suo rapporto veniva, per tal modo, notabilmente scompaginato. Eppure questo prelato stava allora acquistando una singolare popolarità. In tempo del colera, da cui fu nuovamente flagellata allora la capitale, egli seppe affettare siffatta tenerezza per i malati che la nostra plebe, più di ogni altra gente della penisola, propensa al meraviglioso, spinse l'ammirazione fino ad attribuirgli il dono dei miracoli. Quell'anima caritatevole, quel vaso di elezione, bastava che imponesse la destra sul capo del coleroso per discacciar tosto il morbo e dal corpo infetto e ancora da quella casa. Il Riario allora s'avvide che per avere io trovato al fine qualche buon appoggio in Roma, la mia fortuna cominciava a sorgere e, non sembrandogli ormai prudente di opporre altri seni inciampi, tergiversò, traccheggiò, ma finalmente messo alle strette, decise che il certificato dovesse essere steso o dal professor Ramaglia o dal Giardini. Il primo se ne scusò. Venne il secondo. «Non una sola, ma 100 fedi farei, simili a quella del vostro curante», disse costui, dopo avermi minutamente e a lungo esaminata. «L'inumanità di cui siete vittima desterebbe orrore anche a un barbaro. Se la mia fede potesse procacciare un sollievo alle vostre pene, siate certa di conseguirlo in breve. L'aria libera è necessaria a voi quanto il pane. Dove vorreste andare?» E stava sospeso, con la penna in mano, nell'atto di scrivere. Per sottrarmi dalla diocesi di Riario proposi i bagni di Castellammare e il medico approvò la scelta. Lo stesso giorno mandai la fede all'arcivescovo, il quale, non sapendo più che fare, dovette forzatamente inviarla a Roma. Non si però che non l'accompagnasse con una sua lettera piena di velenosi dubbi e insinuazioni. La persona che in Roma aveva l'incarico di salvarmi stava in cerca di un qualche appiglio per condurre la pratica a buon fine. Ora, nel rileggere quest'ultima lettera dell'arcivescovo, vi notò una frase che per sua ambiguità mirabilmente prestavasi a mio favore. Dicendo di temere per la mia salute, Riario intendeva la salute dell'anima. Il rescritto prese motivo dall'interpretazione opposta, ossia dalla supposizione che il cardinale avesse inteso la salute del corpo. Iddio dunque decretava che avessero fine una volta le mie tribolazioni e incominciasse il periodo del respiro nell'aspettazione di quello del trionfo. 3 giorni dopo che io ebbi mandato il breve al cardinale, mentre lavorava tutta sola nel mio umile abituro, fu bussato con forza alla porta. Mi disse una conversa: «È venuto il cardinale, domanda di voi, spicciatevi». Mi ritornarono in mente le vessazioni, le promesse mancate, i tradimenti, la lunga oppressione, la trista scena dell'arresto. Avrei voluto licenziarlo, scaricargli addosso col congedo la pienezza del mio risentimento, ma dissi fra me: è presto ancora, con gli ipocriti ci vuol politica. Lo trovai nel salotto. Non l'aveva veduto da 4 anni. Mi parve invecchiato di 10. Le gagliarde convulsioni che in Italia avevano agitato e la Chiesa e lo Stato avevano solcato la sua fronte di geroglifici indizio di prematura vecchiezza. Riario non era più quello di prima. Mi parve non lui, ma l'ombra sua. M'avanzai senza inginocchiarmi, sedetti senza chiederne il permesso. «Voi ricordate il passato e non potete lasciare il broncio», mi disse con sorriso forzato. «Confesso d'essermi male regolato talvolta. Sono uomo anch'io». Homo sum, e ogni uomo può sbagliare. Dopo tanti disinganni, lasciarsi riprendere all'esca sarebbe stata una pazzia. «Solamente», risposi dopo un lungo silenzio, «solamente per rispetto al vostro sacro carattere e perché credo al vostro ravvedimento, condiscendo a gettare un velo sul passato». «Siete dunque irremovibilmente risoluta di uscire del chiostro ove vi richiamano voti solenni?» «Ubbidisco alla voce di Dio che mi richiama alla vita. E vi proponete inoltre uscirmi di mano, trasferendovi in altre diocesi, lo so, odè, non lo fate, per amor del cielo. Non vogliate ripudiare la casa che vi ha visto nascere, il padre che vi allevò e tuttavia vi sostiene. Sì, voi siete figlia mia. È vero che foste un pochino maltrattata, ma siate sicura che da oggi in poi userò con voi l'amorevolezza e la carità di un padre amoroso». Queste parole mi svelarono lo scopo della sua visita. Gli doleva di sopportare agli occhi del mondo l'affronto di vedermi strappata alla sua giurisdizione. L'avversario, se umiliato e ravveduto, desta pietà, ma larvato d'ipocrita svisceratezza rinfoca l'ira smorzata. «Fidatevi», esclamai vivamente, «fidatevi delle promesse. Credete alla mallevadoria di persone che sanno mantenere la parola come voi la manteneste al padre Spaccapietra relativamente all'arresto mio? Quando io prometteva di non farvi arrestare dai biri e ricondurre in clausura, voi, cara mia, non avevate fatto quello che faceste poi? Chi mai si sarebbe immaginato che avreste aspirato alla secolarizzazione, che vi sareste portata al pubblico passeggio appoggiata al braccio di liberali iscritti nel libro nero? Scommetto che domani, se mi incontraste per via Toledo, fareste altrettanto. Ora le cose hanno preso un aspetto differente. Anche volendolo fare, non potrei. Oh, dite piuttosto, come disse all'agnello il lupo, che ho turbato l'acqua dove i vostri maggiori solevano abbeverarsi. Cardinale, quando col segno della redenzione in mano calpestavate un'orfana ed inerme donzella, pensaste mai all'ora suprema della morte, al giorno del giudizio? Non parliamo del passato, posso aver peccato per cattivi consigli o per debolezza, ma in fede mia, neppur voi siete immune da torti. Voi che sotto il velo di monaca voleste nascondere infami trame di demagoghi e repubblicani. Ma, ripeto, deponiamo i vicendevoli rancori. Vi userò da ora in poi la più inalterabile carità. Eminenza, vi ho conosciuto per lunga esperienza e durissima. In avvenire vi bacerò anch'io la mano, se vorrete, ma non permetterò che in ricompensa mi regaliate un morso. Quell'archetipo di simulazione sarebbe, credo, rimasto impassibile al più grave oltraggio, purché avesse potuto accalappiarmi di nuovo. Propose di scegliermi un altro chiostro, incomparabilmente più comodo che non era il presente, di accordarmi il permesso di uscire ogni giorno, di procacciarmi un nuovo e più largo assegnamento. Gli troncai le parole in bocca, dicendo: «No, no, buon padre, voi qua, io là, ognuno al suo posto. Determiniamo chiaramente, fin da questa conferenza che sarà l'ultima, il posto che ciascheduno di noi conviene. Patti chiari, amicizia lunga». «Verrò di tanto in tanto a visitarvi, lo permetterete?» «Non lo sperate», dissi in tono fermo. e alzatami per uscire con un'aria di sovrana che avrebbe ricordato Elisabetta nell'atto di congedare sdegnosa l'arcivescovo di Canterbury. Troppo lunga durò, troppo oppressiva mi tornò la vostra tutela. Vorrebbero che io vi chiedessi conto del passato, non lo farò. Ma è tempo ormai che, ritornato in pace alla vostra sede, vi prendiate cura della propria salute, ben altrimenti che non avete fatto per la salute della vostra pupilla. Se non volete essere incolpato di snaturatezza, se all'onore che vi è dovuto credete necessario il rispetto mio e il rispetto del pubblico, tornate, monsignore, tornate tosto alla vostra sede e in avvenire liberatevi da quella smania di intrigo e di prepotenza che, mettendo a repentaglio la vostra reputazione, distrugge di giorno in giorno la vostra autorità. Il cardinale, accortosi oramai che per accalappiarmi e tenermi troppo vecchie e sdrucite erano le sue reti, mi prese per il lembo dello scapolare dicendo un'ultima parola: spero che a Castellammare abiterete in un ritiro. Farò come al mio nuovo vescovo piacerà. Oh, spero che terrete il volto coperto con un velo nero. Il Bruno non è ancora finito, lo porterò. Si alzò allora anch'egli e al suo passare le monache tutte si gettarono in terra genuflesse. Questa, per devozione, palpava la falda della sua porpora, quella con l'estremità delle dita gli toccava la mano, indi si baciava la propria. Non una che non gareggiasse per ricevere prima dell'altra la sua benedizione. Pah! Disceso all'ultimo scalino, si volse addietro per dare alle monache l'ultima benedizione. Ravvisatami nella prima fila di esse, lieta e festosa di mirarlo giuso, recitate un'Ave Maria per me, disse benedicendomi distintamente. Requiem aeternam, risposi. Aperto carteggio col vescovo di Castellammare, lo pregai di non volermi far entrare in monastero, in quanto all'andar fuori gli annunziai come una signora vedova, da 18 anni ritirata in Mondragone, mi prometteva di uscire meco ogni volta. Il vescovo vi acconsentì pienamente. Per ultimo servizio, il cardinale proibì alle mie sorelle di accompagnarmi e scrisse al vescovo di mandare qualcuno a prendermi a Napoli. Sembrò quel vescovo stesso tanto capricciosa a tale esigenza che alle mie sorelle, trasferitesi in Castellammare per abboccarsi con lui, «Contentatelo», disse, «aspettate vostra sorella a Granili e quando passerà unitivi a lei». Il 4 novembre del 1854, dopo 3 anni e 4 mesi di crudele prigionia, rividi la luce del giorno. Una monaca, di quelle che vivono fuori del monastero e si chiamano di casa, fu mandata dal vescovo per accompagnarmi. Atte a quest'ufficio, secondo il parere di Riario, non essendo state giudicate né le mie sorelle né la vecchia dama che veniva con me. Che ne avvenne? Cotesta monaca, perché sofferente d'oppressione, venne non in carrozza chiusa ma aperta, terribile contravvenzione. A Resina incontrammo per caso Sua Eminenza. Il cocchiere si levò il cappello, egli alzò la mano per benedire, se non che, stupefatto di vedermi seduta in carrozza proibita, rimase con la mano sospesa. 24. Lo spionaggio. Nuovamente restituita al mondo dei vivi, tutti nuovi m'apparvero gli oggetti che credeva di non più rivedere. Aspirai l'aria pura a grandi sorsi, come se contate fossero le ore che m'era lecito goderne, e mi sentii tocca da viva commozione agli aspetti desti, ridenti delle genti che passavano. Le penose rimembranze si ristrinsero in un punto impercettibile e, per lo contrario, la strada che faceva in carrozza mi parve fiancheggiata da un'immensità i cui orizzonti eccedevano di gran lunga le mie aspirazioni. Avvertita che avrei fatto meglio per ora a valermi della recuperata libertà in campagna che non in città, risposi quello essere appunto il mio proponimento. Assetata d'aria, di luce, di spazio, di libero movimento, presi ogni mattino accompagna la mia vecchierella e, lasciata la città, m'arrampicava su per le balze boscose di Castellammare. Da quelle alture che dominano la sottostante città, l'intera baia di Napoli e i più pittoreschi dintorni di questa terra benedetta, io lanciavo lo sguardo or su questo punto or su quello, Ne misuravo le armoniche proporzioni, ne percorrevo le distanze, ebbra di giubilo, rinascente alle forze native, anzi ispirata da una poesia d'affetti e di speranze che non sapevo d'aver posseduto in addietro. Né in quelle escursioni m'arrestavano le intemperie della stagione, non la pioggia che lungo i fianchi della montagna scatenava furiosi torrenti, non la nebbia d'autunno quando, sboccando dalla foresta e scavalcando i burroni, veniva ad avvilupparmi in densi vortici. Con l'occhio fisso sul punto più lontano dell'orizzonte, aspettavo lo sfumare della caligine per ritrovare poi, alla luce del sole, più bella e splendida una prospettiva, non più circoscritta da enormi muraglie e da spranghe di ferro. Un giorno, percorrendo la montagna, mi imbattei in un contadinello che in una rozza gabbia portava una ventina d'uccelli presi di fresco. «Quanto volete di tutti questi prigionieri?» gli domandai. «Tre piastre», rispose il briconcello. Me li cedé per una, compresa la gabbia. Pigliati i poveri carcerati, uno per uno li restituì alla natia libertà, lieta di vederli prendere il volo e sparire in un batter d'occhio fra gli alberi. Adescato il ragazzo dal guadagno, venne spesso a cercarmi con nuove gabbie e nuovi schiavi. Non trovandomi in grado di largheggiare, fissai di comprarli a 2 grane l'uno e per tal modo mi procurai spesso il diletto di fare ad altre creature viventi il bene che Dio aveva fatto a me. Nel mirarli scappar di mano, io dicevo a me stessa: «Ah, se l'Italia mia risorgesse a vita e libertà, non farebbe anch'essa lo stesso a favor degli altri popoli ancora languenti nel selvaggio?» Cominciavano frattanto a crescermi i capelli, caduti la prima volta sotto le forbici di San Gregorio, e per il corso di 13 anni tosati come quelli delle pecore. A mano che le trecce allungavano, mi pareva di guadagnar terreno nello stadio della personale indipendenza e mi pareva 1000 anni che non più tocchi da ferro servile si ripristinassero all'onore primiero. Mi rimaneva un'altra insegna della servitù, l'abito monastico. L'avevo già smesso in casa, ma bisognava trovar modo di disfarsene anche fuori e per sempre. Quell'abito non solo mi umiliava a me stessa, ma mi annoiava, mi inceppava ad ogni passo. Tutti si voltavano a guardarmi, chi per curiosità, chi per offeso fanatismo, chi per vaghezza di cose originali, e io desideravo passare inosservata per la via. Quegli occhi che mi si puntavano addosso, non importa se con benigna o maligna intenzione, non erano forse un tributo oneroso? Non iscemavano notabilmente il capitale della mia libertà? Risoluta di finirla con quell'anomalia, un bel mattino mi recai dal vescovo. «Monsignore», gli dissi, «quest'abito mi dà tanta noia che per spogliarmene mi toccherà di espatriare se voi non mi date licenza di lasciarlo». «Vi consiglio a conservarlo addosso», rispose il vescovo. Poi, sorridendo, «ma se poi ve ne voleste spogliare assolutamente», soggiunse, «che bisogno v'è di chiedermene licenza?» Qualche giorno dopo deposi l'abito ed egli fece le viste di non accorgersene. Una sola eredità del passato conservai, simbolo della mia vita celibe, il velo nero. Intanto la Stella d'Italia risaliva nel firmamento, piccola sì, ma tuttavolta piena di consolante splendore. La guerra di Crimea aveva procurato alla prodezza della monarchia di Savoia e al genio politico di Camillo Cavour l'opportunità di sollevare il Piemonte, campione della nazionalità e della forza militare d'Italia, al grado di potenza. Una rete di maglie misteriose ormai riuniva Torino alle città principali della penisola. Un gruppo di fili elettrici manteneva l'italico patriottismo in continua comunicazione e operosità. Questo orgasmo febbrile diveniva più visibile in Napoli che in altra parte. In Napoli, dove la dinastia borbonica, per avere violata la santità dei patti, trovavasi non solo in stato di ribellione contro i sudditi, ma pur caduta in discredito rispetto al mondo incivilito e perciò virtualmente spossessata sin dal 1848. Agli occhi della maggior parte, Napoli presentava l'immagine del formidabile suo vicino alla vigilia di una delle più tremende eruzioni che gli annali dei vulcani ricordino. Tutti quanti i partiti rivoluzionari, triste eredità della confusione che condotte aveva alle precedenti vicende, tutti i partiti, non eccettuato il borbonico clericale, stavano ansiosamente attenti ai sintomi precursori della crisi che stava per scoppiare, attenti come l'arrotino della tribuna fiorentina, profondamente assorto nell'ascoltare la congiura. Che faceva intanto io, inoperosa in Castellammare? Gli amici, deplorando l'esilio mio, mi indirizzavano lettere disperate, pensando adunque che si sarebbe in Napoli ritrovato un piccolo posto anche per la mia personale operosità, pensai di mettere in non cale ogni pericolo, purché potessi prestare anch'io qualche tenuissimo servigio al movimento che s'ordinava. Dopo 11 mesi oziosamente passati in quel paesetto, feci una seconda visita al vescovo. Monsignore, gli domandai, se vi scacciassero dalla vostra sede e vi mandassero per il resto della vita in esilio, vi piacerebbe? A nessuno piacerebbe, rispose egli ridendo, perché aveva inteso dove l'interrogazione mirava. E perciò dispiace anche a me, e non potendo stare eternamente separata dai parenti, ho risoluto di tornare a Napoli. Eriario? E il governo e le spie? Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Pochi giorni dopo, io prendevo a pigione un quartierino nella capitale, in un nuovo palazzetto di faccia alla Croce del Vasto, e me ne andai a stare con la vedova, non però senza la precauzione di tenere sempre una stanza in Castellammare per rifugiarmi nel caso di qualche imminente pericolo. Il posto remoto di quell'alloggio, la trasformazione dell'abito e la generosa tolleranza del vescovo servirono a tenermi lungamente al coperto dall'altrui curiosità, e le minuziose cautele che presi in difesa dell'incognito avrebbero prolungata la mia sicurezza senza un caso imprevisto che diede sentore a Riario del mio ritorno. Abitava, al piano superiore, un prete che m'accadde più volte di incontrare per le scale. Il suo sinistro aspetto mi faceva terrore e schifo. Una sera del mese di febbraio, intorno alle 9, lasciai la stanza della vedova per andare a letto. Divideva la camera mia dall'ingresso un salottino rischiarato da un lampione che faceva pur lume alla scala, essendo la via appartata, e il palazzo senza portinaio. In quel momento udii scendere dal piano superiore due persone, le quali presero ad altercare fra loro. Un grido orribile. Ah, infame! Mi fece raccapricciare e subitamente sentii cadere a terra un uomo che con fioca voce diceva: «Mi ha assassinato!». Udii quindi i passi di persona che risaliva frettolosamente le scale, poi uno scoppio di grida e di pianti sopra la stanza mia. Al fine, spalancar la finestra dalla parte posteriore del palazzo e in pari tempo il tonfo di un peso che cadde dalla finestra. La vecchia dama, sua nipote ed io eravamo in preda alla costernazione, tutta la gente del palazzo in movimento, quando intesi voci di persone a me note per gente da bene, preso il lume, mi accostai all'uscio. Io mi ritrassi, inorridita, ma poi, ripreso coraggio, tornai a farmi innanzi per soccorrere il ferito, se ancora vivesse. Aprii e, oh spettacolo orrendo, un giovane, dalla folta e bionda chioma, giaceva disteso vicino alla mia porta. Una larga ferita gli aveva aperto il ventre, mentre quel misero, con gli occhi smarriti e immoti, digrignando i denti, esalava l'ultimo fiato. Domandai dell'uccisore, nessuno sapeva nulla, e non meno ignoto a tutti era il nome dell'ucciso. In quel mentre la serva del prete, nell'atto di svincolarsi dalle strette della padrona, gridava quanto n'aveva in gola: «No! Voglio andar via subito da questa casa di briganti!» E così dicendo si precipitava giù per la scala. Giunta vicino al cadavere, si mise a piangere, a urlare, a storcersi le mani. Domandata dell'assassino, rispose: «Il prete!» Restammo tutti stupefatti. «E quell'infame dov'è? Si è buttato dalla finestra nel giardino!» L'infelice giovine aveva sposata da 9 mesi una sorella di quel prete, il quale sventrò il cognato per una questione insorta di soli ducati 30 sulla dote materna. Ed ecco come. Quella sera lo aveva mandato a chiamare, sotto pretesto di fare all'amichevole un accomodamento, ma mentre il giovane partiva, lieto della pace conclusa, il prete finse di volergli leggere una carta importante, lo raggiunse per le scale, si fermò sotto il lume che rischiarava l'uscio del mio quartiere e lì, invece di porgergli la carta, gli ficcò nel ventre un grosso coltello da cucina. Consumato il misfatto, volle strappare l'oriuolo all'ucciso e gridare all'assassino nell'intenzione di attribuire ad altri la scelleratagine. Ma in quell'agitazione dimenticava di buttar via il ferro insanguinato e pur gridando lo teneva in pugno. La serva, che accorse alle grida: «Ah, siete voi!» gli disse. «L'avete ucciso! Non è codesto il coltello insanguinato!» Il prete allora s'avventò a lei per finirla, ma udendo un calpestio e vedendosi immancabilmente scoperto, aprì la finestra e si precipitò giù. In quello spavento e confusione, nessuno accorse per vedere se era rimasto vivo o morto, finché non giunse la polizia che lo trovò sotto la finestra disteso. Si era rotte le gambe, le braccia e i denti, ma viveva tuttora. Morì il giorno dopo, nelle carceri di San Francesco. La sua sorella e moglie dell'ucciso, incinta di 6 mesi, fu condotta in quel medesimo giorno all'ospedale dei pazzi. Atterrita da questa tragedia, che diè largo argomento di diceria alla città, la vecchia dama, che meco dimorava, non volle più vivere fuori del monastero, temendo forse di andare sottoposta ad altri simili spaventi, per la qualcosa lasciatami con la nipote, entrò un'altra volta nel ritiro, ed io, mutato alloggio, mi rinselvai in un altro, non meno solitario quartiere. Ma il delitto del prete doveva mettere la polizia e l'arcivescovo sulle mie tracce. A chi non è palese la penetrazione della polizia borbonica, massimamente in materia di liberalismo? La polizia, dunque, avendo preso nota del nome di tutti gli inquilini del palazzo dove era successo l'assassinio, non mancò di far noto al cardinale il mio ritorno in Napoli e il mio domicilio ancora. Seppi allora di buon luogo che se per malaventura fossi presa, avrei forse potuto scapolare la sedia ardente, ma non per fermo la bastonata. Da quel giorno incominciarono le spie a mettersi in moto, non altrimenti di uno sciame, e si sa che lo spionaggio era praticato in gran parte da sacerdoti e da monaci. Preti dal ceffo birresco, avvertiti del mio mutato domicilio, ronzarono continuamente intorno al vicinato della mia dimora e presero a seguitarmi dappertutto, muti, costanti, inseparabili, non meno della mia ombra. Addestratami poco a poco a riconoscerli, ancorché travestiti, non li curai. Stetti però molto attenta a non dar loro qualche appiglio di denuncia, appiglio che andavano evidentemente cercando nelle mie relazioni con persone sospette di liberalismo, poiché, quanto a me, non temevo di essere perseguitata. Dall'una parte il permesso ottenuto da Roma di uscirmene da un luogo ove era stata violentemente sequestrata, dall'altra parte il cangiamento di giurisdizione. Erano due argomenti atti a raffrenare le tiranniche recrudescenze di Riario. Nulla di meno, consigliata a mettere pur io delle spie intorno alle spie laiche e clericali che m'assediavano, lo feci e ne ottenni felici risultamenti. Con questo mezzo pervenni non solamente a porre me stessa in stato di difesa, ma poranco a poter trattare liberamente gli amici e perfino a frequentare qualche casa segnata con croce nera dal commissario. Per dare un esempio del metodo da me tenuto nel deludere la vigilanza delle spie, basti dire che in quell'intervallo di 6 anni cambiai 18 volte di abitazione e 32 volte di donna di servizio. Quello spionaggio borbonico di mostruose proporzioni vestiva 1000 forme diverse, prendeva 1000 diversi atteggiamenti, infestava l'aria stessa del santuario. Entrata in qualche chiesa del vicinato, i preti andanti mi assaltavano fin dalla porta per domandarmi: «Volete confessarvi?» Stabilita in qualche nuova casa, i vicini stavano attenti a sobillarmi la fantesca con adescamenti di ogni genere. Poi la interrogavano: «È fanciulla? È vedova? È maritata? Perché abita sola? Perché non si marita? Chi è il suo confessore? Ha qualche amante? Come si chiamano quei tali che l'hanno visitata stamani? Tiene carteggio con nessuno? E le lettere? Le porta da sé alla posta o le consegna a voi?» Ed ecco la via che seguiva lo spionaggio di quel dipartimento. Il fatto della fantesca passava al droghiere, all'oste, al farmacista, ebbene spesso al medico del vicinato. Da questi si trasmetteva sotto la garanzia della confessione al parroco e quindi al vescovo, dal quale passava ipso facto al commissariato, donde giungeva poi al gabinetto del re. Una volta mi avvenne di avere dirimpetto alla mia abitazione una vecchia zitellona, la più molesta zanzara delle maremme clericali di Napoli. La sua casa era dalla mattina alla sera un viavai di frati e di preti d'ogni specie. Ella li menava al balcone, onde pigliarsi il gusto singolare di accennarmi loro a dito, ogni volta che per caso m'affacciassi alla finestra. La mia serva fu da lei guadagnata con regali e per questo canale ella si informò di tutto quello che accadeva in casa mia. Per liberarmi dalle punture di quell'insetto che non mi dava né pace né tregua, mi convenne perdere un trimestre e cercarmi un asilo in altra via. Ma fu peggio. Seppi con mio stupore che il padrone di casa era niente meno che un impiegato di polizia. Appena saputo ciò, voleva lasciare anche quell'abitazione a rischio di perdere un secondo trimestre, ma una tale precipitosa partenza avrebbe maggiormente destati i sospetti del poliziotto e perciò presi il partito di rimanervi. A dritta e a manca dello stesso piano da me abitato stanziavano perpetuamente due birri maschi, al piano di sotto vigilavano, pettegoleggiavano due altri birri femmine, sorelle del padrone di casa. Spie al buco della chiave dell'uscio di casa, spie per le scale, spie nel cortile e nei terrazzi. Insomma, un'invasione di spie in tutti i luoghi. Quest'argo dai 100 occhi, avendo notato che io non mi confessava, ne fece parte al parroco e questi chiamò in casa sua la mia Fantesca per assoggettarla al lungo e minuzioso interrogatorio, particolarmente rispetto ai nomi e alle qualità delle persone che frequentavano la mia casa. Ne uscii a bene, avendo la Fantesca affermato di non vedervi praticare nessuno, ed era vero, ma dovetti anche quella volta mutar di cameriera. Non ebbi in questo intervallo dalla polizia che una sola gran fiatina. Alcuni mesi dopo la morte di Ferdinando II mi imbattei presso gli studi in un uomo non meno insigne per patriottismo che per sapere. Scambiati complimenti d'uso, parlammo brevemente dell'aspetto che le cose d'Italia prendevano, atteso l'imbecille governo di Francesco II. Poi, data intorno un'occhiata d'esplorazione, l'illustre uomo si trasse di tasca una lettera che mi consegnò. Io me la riposi in seno, non però senza accorgermi che era stata adocchiata dal pedissequo poliziotto e per conseguenza non senza la sicurezza d'essere chiamata l'indomani a renderne conto. E così fu. Di buon mattino mi fu annunziata la visita di un aiutante di Aiossa, il quale, con esimia garbatezza, volle da me sapere quando e dove e per mezzo di chi avessi fatta la conoscenza del signor B.G., se questi fosse uso di visitarmi, ciò che il giorno innanzi m'aveva detto per la via, eccetera, eccetera. A tutto questo risposi in modo che parve averlo soddisfatto. E la carta che egli le mise in mano? Mi chiese da ultimo. Vorrebbe ella compiacersi di favorirmela per un momento? Eccola, appunto, risposi con prestezza e disinvoltura. E pigliata una carta piegata che a tal uopo avea messa sul mio scrittoio, gliela porsi con garbatezza uguale alla sua. Era l'ultimo numero del giornale di Napoli. La mattina del 25 giugno 1860, tutte le cantonate di Napoli erano ingombre di gente di ogni classe intenta a leggere un manifesto. Era l'atto sovrano per cui il giovine Elio Gabalo, stretto dalla rivolta di Sicilia, dalla vittoria di Garibaldi, dall'attitudine minacciosa della capitale e delle province continentali, dalle mire, come costoro le chiamavano, invasive della Casa di Savoia e dall'indifferenza dei gabinetti, prometteva ai suoi sudditi istituzioni rappresentative italiane e nazionali e una lega col re di Sardegna. Accettava i tre colori e faceva sperare analoghe istituzioni costituzionali per la Sicilia. Dopo aver letto, tutti si restringevano nelle spalle con aria di compassione. «Che dice?» domandai al mio compagno che per leggere il manifesto si era fatto largo nella folla. Mi rispose, «il testamento di un negoziante fallito per la quinta volta». Così quell'atto sovrano era chiamato anche dal Comitato Centrale di Napoli, il quale, in un proclama dello stesso giorno, diceva ai napoletani: Qualunque apparente concessione strappata dall'urgenza dei tempi ed intesa a ritardare la piena ed intera attuazione dell'idea nazionale sarà accolta con disprezzo. 25. La libertà. Festevole e sfavillante, ritornò al cielo di Napoli quel sole medesimo che tramontando aveva ritratto i suoi raggi dai funerali della monarchia borbonica. Il 7 settembre è una di quelle date memorande, citando le quali non sarà necessario aggiungere il millesimo. Dormì pochissima gente quella notte, spontanei e popolari gli apparecchi per il solenne ingresso del liberatore. Già i primi albori avevano trovato in piedi tutta Napoli. Le principali vie della città, stipate da più centinaia di mila persone, armate la maggior parte per apprensione di qualche movimento reazionario, le finestre, i terrazzi, perfino i tetti gremiti di spettatori. In Toledo non si passava, non pur una casa che non fosse prodigamente imbandierata o fregiata di emblemi nazionali o parata di arazzi. E da quella frenetica agitazione, da quel delirio, Un continuo risuonare di canti marziali patriottici, un concerto di voci diventate rauche per il soverchio acclamare Italia, Napoli e Garibaldi. E delle mie proprie sensazioni che dirò? Dirò che con occhi molli per le lacrime di gioia sollevai lo sguardo e il pensiero al divino e dal fondo del cuore lo ringraziai di tre cose: d'avermi salvata due volte dalla mia propria disperazione, d'avermi sottratta dal despotismo dei preti e dalla persecuzione delle spie, d'avermi fatta spettatrice di una fra le più grandi e commoventi scene della palingenesia cristiana. Ma che importano d'ora innanzi le mie sensazioni? Stucchevole superfluità, il dramma è giunto al termine. La mia storia finisce in questo giorno, che per l'Italia è giorno di nuova creazione. Quell'io che vestito di gramaglie si cattivò, lettore o lettrice, la tua pietà, solo perché all'intorno di lui tutto era lutto e silenzio, ora sparisce, siccome stella sopraffatta dal fulgore del sole nascente. E il mio velo? Mentre per evitare la solennità di un Te Deum e per sfuggire la prece d'uso, Signore, fa salvo il tuo popolo e la tua eredità, i preti di San Gennaro tenevano occupato Garibaldi nella visita oziosa dei loro tesori, io, toltomi il velo nero dal capo e ripostolo su un altare, ne feci atto di restituzione alla Chiesa, che me l'aveva dato 20 anni fa. Da quell'istante considerai strappato pur l'ultimo filo che mi vincolava allo stato monastico. E il nome di cittadina divenne per me il titolo più proprio. Perciò, se qualcuno da allora in poi mi ha chiamata per abitudine suora o canonichessa, io l'ho interrotto dicendo chiamatemi cittadina. E se volete aggiungere una distinzione, dite quella cittadina che provocò e promosse il plebiscito delle donne in Napoli. Se però non sono amica della sottana nera, non conservo per essa risentimento. Ho deposto i miei rancori col velo nero che lasciai sull'altare. E di molti insegnamenti pratici mi riconosco debitrice alla lunga reclusione. Se per il tratto di 20 anni non mi avesse il destino ribadita al piede la catena del galeotto, se fossi passata a marito giovinetta, avrei forse nella scuola del mondo imparato altrettanto a scemere le malvagie passioni sul loro nascere. Le passioni che sbocciano nell'aria chiusa e si nutrono di ire, di rancori, di gelosie, di sospetti. In questo tempo mi avvenne di far conoscenza con un uomo di mezza età, i cui sentimenti elevati, in armonia con la fermezza del carattere, si cattivarono il mio rispetto e me lo fecero fin dal primo istante reputare di gran lunga superiore a quel che generalmente sono gli individui di lignaggio principesco. Egli portava scolpita nel cuore la santa immagine dell'Italia redenta e al capo una larga cicatrice ricordo di ferita riportata il 15 maggio dalla sciabola di uno svizzero. La conformità delle opinioni e delle vicende fortificò la nostra amicizia. Si trattò poco appresso di consacrare questa scambievole simpatia con l'impronta della religione e ricorremmo alla Chiesa per la benedizione del matrimonio. La Chiesa formalmente ricusò il suo consenso. Pratiche, suppliche, tutto fu vano innanzi a quel piramidale ed inesorabile non possumus. Dovemmo far benedire il nostro matrimonio da un sacerdote di rito diverso ed eccomi finalmente felice. Accanto ad un marito che mi adora, a cui rispondo con uguale amore, mi trovo nello stato in che Dio pose la donna fin dalla settimana della Genesi. Perché? Compiendo gli uffici di buona moglie, di buona madre, di buona cittadina, perché pur io non potrò aspirare ai tesori della divina misericordia. Qui termina il diario di Enrichetta. Ma prima di pronunciare la parola fine, dobbiamo come sempre completare il quadro. Quando Enrichetta scrisse le sue ultime parole in questo diario, era entusiasta dell'Unità d'Italia e ancora non sapeva che i tradimenti verso di lei non erano terminati. Infatti, esattamente come Napoleone aveva tradito la rivoluzione, così Garibaldi, Cavour e compagni tradirono il popolo italiano, consegnandolo ai Savoia, che non furono certo migliori dei Borboni. Al popolo non fu permesso fare l'Italia, come racconta chiaramente una testimone oculare, la matriota Cristina Trivulzio di Belgioioso nel suo Il 1948 a Milano e a Venezia. Ne lasciamo il link in descrizione. Perché l'Italia non doveva essere fatta dal popolo, bensì da altre forze che l'avrebbero portata alla sudditanza e alla sottomissione per decenni. Infatti, i Savoia e l'esercito Sabaudo tradirono la rivoluzione popolare di Milano quando di notte aprirono le porte della città e disarmarono la popolazione pronta a combattere, consegnandola agli austriaci. Dunque, i Savoia si sostituirono ai Borboni nello sfruttare la nostra patria per i propri interessi. Una interessante testimonianza di questo malcontento che seguì al tradimento di Garibaldi e dell'Unità d'Italia fu il fenomeno del brigantaggio che al sud si oppose al nuovo regime e di cui fecero parte numerose donne indomite e motivate. Di questo si è occupata Mara, figlia di Adriana, e domani ascolterete l'altra versione dell'Unità d'Italia al sud, quella censurata dalla narrazione ufficiale e che nelle pagine di Enrichetta ancora non emerge, ma di cui ella, con gli anni, ebbe tristemente contezza, giacché morì sola, dimenticata e in miseria. Garibaldi fu l'ultimo e il più grande traditore di Enrichetta e di quelle come lei che avevano combattuto per la patria. E ora, nel darvi appuntamento al prossimo docuvideo sul brigantaggio e sulle donne briganti, possiamo dire fine.